Wall Street, I viaggi del lupo. E siamo pronti per una nuova puntata di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi. Oggi è il 10/11/2017. Ciao alla Cri, che ci saluta dall'altra parte del microfono. Ciao, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi manca il nostro braccio destro. Il buon Fabio. Dopo vediamo come possiamo fare per averlo anche solo per un minuto. È vero. Adesso vedo di contattarlo via telefono, poi dopo magari lo disturbiamo un po'. Tanto so che è lì a fare una cena sempre lì a Magnana. La bella vita. Mica come noi che abbiamo avuto una settimana d'inferno proprio. E poi abbiamo Sara invece che ci parlerà insieme a Emanuele che deve arrivare. È arrivato. Fuori dalla porta, adesso arrivato. Tra poco è in castigo fuori dalla porta. E niente, che ci parlerà un po' del solito suo blog. Poi avremo anche nel corso della serata un'altra ospite. Non svegliamo niente per adesso. No. Allora, questa sera ascoltiamo un po' di musica che ti dicevo in questi giorni, te l'ho fatto un po' sentire. Un po' di roba nuova, mettiamola così, ma anche un po' molto conosciuta. E andiamo ad ascoltare il primo brano, che è Foster the People con Sit Next to Me. Quelli che abbiamo ancora sotto sono i Foster the People. Loro sono un gruppo degli Stati Uniti, indie pop, elettronica, ma a me piacciono molto. Bella questa canzone. Sono tranquilli, dai, da inizio serata, non è nulla di impegnativo. Easy, easy. Sì, sì, sì, sì. Intanto è arrivato anche il nostro buon Emanuele. Buonasera a tutti. Emanuele, con due M. Emanuele. Lo cercavo su Facebook e non lo trovavo. Ahi. Poi mi ha spiegato che in realtà devo cercare con due M. Infatti, poi l'ho trovato subito. Ecco. Vabbè, allora, diciamo quindi che abbiamo questa sera Sara e Emanuele per il blog di Biomaterra. Niente, il solito blog, dai. No, vabbè, era per scherzo che dicevo il solito blog. E stasera di cosa ci volete parlare? Allora, oggi parliamo un po' della resistenza dei lupi, quindi quanto possono viaggiare, quanto corrono, insomma, quanto tempo spendono della loro giornata, giusto, a giusto. Girare in giro. Riposeranno anche un po' sti lupi. Adesso la sigla però dovrà cambiare. Perché? Metterci sotto sottofondo di Super Quark questa. È vero, hai ragione, me lo devi ricordare che la preparo. L'avevamo già detto che dovevamo prepararla e mi hai colto in errore ancora. No, volevo dire che effettivamente noi abbiamo parlato con loro, visto che trattano della natura, del mondo della natura, degli animali. Abbiamo deciso di parlare un po' di quello che può essere delle notizie inerenti al lupo. Mm-hmm. Giustamente, perché visto che siamo a Radio Lupo, mi sembrava una cosa carina, intelligente. Quindi questa sera, niente, dici pure qualche informazione quindi sui lupi. Allora, innanzitutto, mentre cercavo su internet un po' di informazioni così, mi sono accorto che il lupo non conviene avercelo come animale domestico, perché se uno deve portare a spasso come il cane si fa i super viaggioni. Perché il lupo praticamente trascorre in media circa 8 ore al giorno a marciare in giro, di cui tra l'altro la maggior parte di queste ore sono durante il crepuscolo. E ci sono stati vari studi, tra cui appunto un biologo finlandese che ha seguito un branco di lupi per ben 200 chilometri, un altro invece il famoso naturalista Adolf Murray, che osservò un branco in Alaska, che invece questo qua percorreva praticamente ogni giorno 60 chilometri. Però la curiosità è che soltanto i membri maschili del branco facevano questi viaggi, mentre le femmine restavano a preparare la tana, esatto. Le femmine sono stanche, mica possono correre. Hai capito. Come nella vita reale. Come noi trascorriamo 8 ore di lavoro, loro fanno il loro lavoro. Ma quindi se uno dovesse avere un lupo, praticamente esce alle 8 del mattino e torna a casa alle 8 di sera. Esatto, una giornata lavorativa. Ma come mai escono allora nel crepuscolo? Perché ci sono più prede? Perché, non so. Probabilmente sì, perché è più facile acciuffarle, sì, insomma. Sì, la maggior parte dei mammiferi si muovono negli orari in cui la luce è crepuscolare, quindi al tramonto oppure all'alba. Cioè, non c'è. Esatto. Interessante. Hai qualche altra informazione per noi? Sì, allora, i lupi però perdono un po' in agilità. Sono molto resistenti, ma sono meno agili dei coyote. Anche se sono stati visti degli ibridi tra lupo rosso e coyote che riescono un po' a sopperire a questa mancanza di agilità. Arrivano anche a saltare 1,5 metri da terra. Quindi se pensate di mettervi in salvo sugli alberi con questi qua, non funziona. Dovremmo trovare un altro tipo di... Ecco, un altro tipo. Già iniziamo. Non è il meteo. La scritta spegnere il cellulare. Dovremmo farlo. Allora, basta. Ma io non lo so, ma guarda un po'. Stavamo dicendo? No, volevo chiederti una cosa, sì. Ma il lupo rosso? Non ne sai niente. Possiamo informarci di più. Esatto. Va bene. Uno spot perché così... tu hai parlato di questo lupo rosso, del coyote, però in effetti io non ho mai sentito parlare di lupo rosso. No, poi io... Cioè, lupo... Come no? No, vabbè. Nei cartoni. Willy il coyote, no? No, però è vero, potrebbe essere una cosa, uno spunto sì, interessante da approfondire magari un'altra volta, mm-hmm. ci sta. Va bene, dai, andiamo a ascoltarci un po' di musica e poi dopo tu mi dicevi che avevi anche un nuovo post da introdurci. Dai, possiamo parlare... Va bene, tanto ringraziamo Emanuele. Stasera è la serata cultura. È un po' di cultura, sì, che settimana scorsa abbiamo un po' latitato. Andiamo ad ascoltare adesso Marcus Marr con High Time. We'll be right back. stavamo parlando un po' di vita animale natura e chiedevo un po' a Sara aggiornamenti dal suo blog Biomaterra. Dici un po'. Sì, allora, praticamente non mi ricordo quando è dal stato vostro blog, tra l'altro. Io sì. Dico il tuo blog, in realtà il è il vostro blog. Sì, esatto, ma in realtà guarda, cioè, quello che scrive di più è lui. Io ecco, quindi è il suo blog, non è nemmeno il tuo. Io mi occupo più di cose, ad esempio le foto, la gestione. Ad esempio adesso ho cambiato la grafica e tu pure mi hai detto che è molto bella, quindi sono contenta. Allora praticamente l'ultimo articolo che abbiamo messo, che ho scritto io stranamente perché non scrivo articoli da un bel po', ho scritto sull'Etna. Ma siccome sono andata in Sicilia e ho visto l'Etna, quindi aspetta, questo è hai portato un'esperienza personale. È perfetta per Wolf Trips perché sono i viaggi del lupo, quindi no, allora, il viaggio di Sara. Sì, il viaggio di Sara. No, non è, questa volta non è stata l'esperienza, però sto facendo quello che mi hai detto tu, Cristina, cioè scrivere proprio del viaggio. Ho parlato più della storia geologica, quindi come si è evoluto l'Etna. Lo sapevi che attualmente l'Etna ha 4 crateri? Oh, sì, no. È uno scioglilingua, sono tutti 4 crateri. Sono tutti e 4 attivi? Sì, allora adesso ce ne sono 4, in realtà prima ce n'erano centinaia. Oh. Cioè, anticamente l'Etna non era solo un Etna, cioè possiamo dire 4 Etna. Un Etna. No, vabbè, ma il vulcano... No, ma il vulcano come struttura è fatto sì, in quel modo lì, nel senso, esatto. Ha un cono principale e poi ha vari sfoghi, come possiamo chiamarli. Varie bocche. Nel senso, non sono 4 Etna, è sempre una la... Sì, sì, sono 4 bocche che sono formate ovviamente tutti in tempi diversi, però in realtà sono 2 le camere magmatiche, possiamo dire. Ah, perché okay. Ci sono stati 2 tipi di attività. Noi sappiamo che comunque il vulcano... Ma il post quindi cos'è che fa? Parla? Cioè cos'è che troviamo sul... della storia. Come è nato, quando è nato, perché, come, quando, dove, insomma. Poi ci sono alcune foto. Ma tu avevi fatto anche un video, mi ricordo, no? Sì, allora... Ultimamente sto dando poco passione a questa cosa, poco non seguito. Sto facendo, sì, esatto. Però avevo fatto dei video, ho fatto anche dei video quando sono andata in vacanza, ancora non ho fatto niente perché tu lo... Vabbè, sai, poi leggeremo cantato. Anche il post dell'esperienza no, l'ho personale. Già, l'ho già letto, l'ho già letto. Da, adesso magari ci puoi riassumere in qualche in brevi parole un po' il contenuto del post, dirci un attimo la storia dell'Etna. Vogliamo farlo dopo la canzone? Ma no, dai, chiudiamo anche così. No, va bene, dai. Parliamone dopo, dai. Ma 2 cose giusto per, sì, per giusto capire per un attimino. Un attimo per far sapere agli ascoltatori un po' la storia di questo vulcano. Dai, tanto lanciamo il prossimo brano che si chiama Spoon con Can I Sit Next to You? E poi c'è la pubblicità e poi rientriamo. Tanto abbiamo tempo fino va bene. Alle 9 passate. Sì, no, oggi andiamo avanti fino alle 9:30. C'è problema. Allora. A dopo. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes. Come and bring them to me. I've been gone so long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my world. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I won't walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are really new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good. know what's changing my mind. Oh, oh. Gonna walk a tight road, gonna get kicks every night. No one's holding me back, no one's changing my mind. Get the stars at your eyes, come and sit next to me under Tennessee skies, down on South Front Street. Oh, I've been working on a plan, yeah. Esplorazione musicale. A tavola! Quando questi esemplari cercano il cibo, travolgono tutto sul loro percorso. Famiglia scatenata! Solo nei 500 negozi Original Marines troverete l'abbigliamento per la vita selvaggia di tutti i giorni. Original Marines! Razza Original! Yamamai, intimo e moda mare, prodotti realizzati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia ed in particolare per la donna attenta alle tendenze della moda. Yamamai, con una rete di oltre 500 punti vendita monomarca che coprono l'intero territorio nazionale. Scopri quello più vicino a te su www.yamamai.com. Amici, vi presento il Family Pub. Si trova in via Patriotti 7 a Inarzo, in provincia di Varese. Da martedì a domenica trovate ottimi panini, focacce e piadine, oppure piatti veloci. La pizza è veramente buona, tanto che si può avere anche a domicilio o da asporto. Fantastiche le birre Poretti con tutte le sue varietà di luppoli. Sala giochi e premium TV per seguire le partite della tua squadra del cuore. Area esterna e possibilità di prenotazioni sala per eventi privati e feste a tema. Tutti i weekend live music e DJ set con Radio Lupo Solitario. Family Pub, divertimento per tutti. Ci vediamo lì. Energia, musica, passione, divertimento, adrenalina. L'evento musicale dell'anno che stavi aspettando sta per arrivare. Neuro The Black Legend. Tutto il meglio del rock, hard rock, reggae, afro e punk in una location tutta da vivere. I console, i migliori DJ che hanno fatto ballare intere generazioni in una lineup da spettacolo. DJ Fabio Ornago, DJ Peppo, DJ Pie, DJ Manga, DJ Giorgio Fioretti. Voce Miki Squillante e lo zio Sam sotto la direzione artistica di Edo Boleso. Grafica e location Andrea Giammarino, PR Guest, School Andrea e Savino Sarcina. Ingresso gratuito a partire dalle ore 20:30 fino alle 3 del mattino. Opera Rock Caffè, Ierago con Orago, Varese. 11 novembre 2017. Neuro The Black Legend. Vi aspettiamo. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. at superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just fall in the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just fall. Questo era il brano di San Vincent, Los Ageless. Ah, bello. A me bello. Piace, a me piace. Sì, no, molto bello. Anche il video dire. È bello, carino. Sì. Guardatelo, guardatelo, non è male. Su poi Wikipedia? Tanto... No, su YouTube. E tanto poi dopo metterò la playlist, quindi chi vuole spulciarsi le canzoni come al solito, poi dopo se le vanno sempre a selezionare e vedere. Poi mi chiedono, ah, che canzone era, che canzone non era. Metto la playlist. Sì. Chiudiamo il discorso allora del... Del post di Sara. Sì. Del allora, posto di Sara. Del posto del posto. Allora, stavamo dicendo, mi avete chiesto di fare una sintesi di quello sì, che ho scritto. Sì, poi dopo allora, uno se lo andrà a leggere con calma. No, sì, dovete andarlo a leggere perché per forza, ci ho messo mille mesi a scriverlo, quindi andate a leggerlo. Allora, quindi, questo articolo parla dell'Etna e la storia del vulcano, che dovete sapere che è il vulcano più alto che c'è in Europa. Sai quanto è alto, Cristina? Mm. Dai, spara una cifra. Mi cogli impreparata, dai, guarda. Spara. Non so, vediamo un po'. Dov'è dai. Wikipedia? Allora, te lo dico io. Attualmente dovrebbe essere 3350, 3330, non si sa, perché comunque sai che la lava si muove, se perde, cade, non si sa, quindi 3050, però non è che cambia così tanto. Quindi questi 3330 metri... Prima non c'erano una volta. Anni fa non c'erano. E cosa c'era? Non c'era niente. Ah. Si sono creati grazie alle tettoniche, grazie alle zolle di terra che si sono delle mosse. Placche di terra, esatto, che si muovono. Delle placche che sono mosse e che hanno creato questo vulcano. Oh. Questo vulcano che è uscito fuori grazie alla lava. Giusto, sai che cos'è? Sì. Ma in teoria la si disegna anche quando si è bambini, esatto, la lava esatto. rossa che scende dai vulcani, quindi in teoria dovrei avere qualche ricordo dei disegni che facevo. Riminescenza. Esatto. Quindi insomma questo vulcano si è formato così. Prima però abbiamo detto che non c'erano questi quattro vulcani che c'erano adesso, ma ce n'erano tanti altri. Ad esempio, guarda qua, c'erano alcuni nomi di questi sono ad esempio Trifoglietto, Calanna, Cuviglioni, molto nomi strani, stranissimi. Sono del nord, nomi del nord. Molto del nord. Ma poi soprattutto ricordarli è una passeggiata. Sì, sì, guarda, sì. Tantissimo. Sì, sì. E invece però da parte siciliani questo viene chiamato semplicemente la montagna. Invece che mettere tutti questi nomi così. Vabbè, dai, difficili. Ricordiamo un po' il sito dove possono leggere un po' il tutto. Allora, potete andare a leggere tutto questo su Biomaterra. Basta che scrivete www.biomaterra.wordpress.com oppure andare su Google. Andare su Google e scrivere Biomaterra, perché scrivendo oppure sulla pagina Facebook. Oppure sulla pagina Facebook, oppure su Instagram, insomma, Biomaterra ovunque. Scrivetelo. L'avete ovunque. Socializzato un po' dappertutto, diciamo. Esatto. Io invece, a proposito di montagne, nulla, andate tranquilli. A proposito di montagne, cosa mi è capitato questi giorni? Andando a lavoro, ho visto proprio le montagne, tutte le cime imbiancate. Vabbè, il periodo inizia a essere giusto. Io sai cosa volevo fare? Prendermi un mese, due mesi, quanto mi basta, andare su ogni cima di montagna a fare un pupazzo di neve. Magari l'avrei visto da casa, se lo facevi bello alto. Certo, minimo 2-3 metri. Sarebbe bella come idea. Vabbè, vabbè, ognuno sa poi dopo le sue idee. Domenico quando dice vabbè, non mi frega niente. Opinabile. Mettiamola così. Allora facciamo così, se volete restare restate pure, noi andiamo avanti ad ascoltare un po' di musica e poi dopo parliamo con il nostro ospite della serata. Ah, dobbiamo salutare salutare Emanuele. Già, che ci abbandonerà anche lui per andare a mangiare. Grazie. No, no. Tocca grazie. Lavorare ancora. Vabbè, vabbè, dai, ci verrai a trovare un'altra volta. Non, tutti che mangiano stasera, gli unici che non hanno ancora mangiato e non mangeranno per la prossima ora ancora, siamo noi. Vabbè, dai. E andiamo avanti ad ascoltare un po' di musica con Marshmallow e la canzone si chiama... Lui, eh? Sì, sì, sì, però un'altra canzone, si chiama Silence. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm out of mind. And I've been silent for too long. I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. But I'm not asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for too long. E torniamo dopo un po' di problemini tecnici, ma più che altro perché mi sono un attimo rimbambito io, devo dirti la verità, con la regia oggi. Va bene, torniamo a parlare un po' di... Di cosa parliamo? Dimmi tu. Allora, dimmi tu. Adesso abbiamo qua un'altra ospite. Di cinema. Sì, abbiamo qua un'altra ospite che si chiama Erika. Ciao a tutti. Ciao. E niente, lei è venuta, ci parlerà un po' di cinema, un po' di anteprime. Dai. Ma aspetta, aspetta, prima che introduci, ma quindi hai un blog, qualcosa, o ti piace la passione del cinema? No, ho la passione del cinema, ho la passione della recitazione, teatro. Ah, ma reciti tu in prima persona nel... Più a livello teatrale, però ho fatto qualcosa anche a livello cinematografico, e adesso ve ne parlo. Perfetto, dai. Perfetto, vai pure, vai pure. Volevo dirvi che... il 19 novembre, in occasione della giornata mondiale della povertà, verrà trasmesso l'anteprima di Pane dal cielo, che è un film che tratta appunto di persone senza tetto. Ma dove lo possiamo vedere? Si potrà vedere al Cinema Mexico a Milano, okay, alle 11 del mattino. Quindi se volete partecipare potete mandare una mail a rsvp@vedeschifilm.com. Giovanni Vedeschi è il regista di questo film. Quindi Vedeschi, giusto? Vedeschi. Okay. Vedeschi o Vedeschi? Vedeschi. Vedeschi, con la B di Bologna. Infatti, io già mi ero sbagliato, vedi. Esattamente. E ho preso parte a questo film dove ho interpretato una barbona. All'epoca avevo i capelli blu. Ah, beh. Sobrio come colore. Sono una barbona dai capelli blu. Vabbè, vabbè. Ok, quindi sappiamo che... Ma visto che hai partecipato... Se c'è una con i capelli blu sei tu. Però io ho un ruolo, diciamo, non... Secondario. E vorrei ricordare che gli attori principali ci sono dei volti noti del cinema, come Donatella Bartoli, Sergio Leone, che è un omonimo del regista, con la partecipazione di Paola Pitagora. Ah, perfetto. Quindi questo film proprio è incentrato sulla povertà. Sulla povertà e la vita dei senza tetto. Però... Ma ti volevo chiedere... È un argomento abbastanza... Interessante. E importante, diciamo, insomma, che comunque fa parte... Cioè, dà anche delle visioni di alcune realtà che comunque andranno... Cioè, molto, ci sono comunque nella vita di tutti i giorni. Molto difficili. E c'è da ricordare che questo film è stato realizzato non solo con attori, ma... Con persone vere, esattamente. Venivano prese delle persone, delle realtà che possiamo tutti vedere comunque quando andiamo, che ne so, nelle stazioni, piuttosto che nei posti dove c'è questo ritrovo, insomma. Esattamente. Ma però... quello che volevo chiedervi da mezz'ora, cercavo sempre di intervenire. Scusa, ma visto dai. Che hai partecipato, dov'è che si è svolto il film? Il film si è svolto a Milano. Ah, ok, infatti era quello, immaginato, perché essendo che la proiezione poi sarà a Milano, dicevi, al Cinema New Mexico. No, Mexico. Cinema Mexico. Infatti ho detto, sicuramente l'avrà girato a me. Hai avuto modo di vedere alcune realtà, hai modo tutti i giorni di vederle, sì. Di entrare, tra virgolette, in contatto con loro. Sì, sì, assolutamente. E va bene, adesso ascoltiamo un altro pezzo, poi magari ci parlerai un po' del... Tu hai detto che hai la passione un po' per il cinema. Sì, vi racconto. Certo, va bene, a dopo. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano con Feder, Back to For More. Stars. Never waited for my love. Now you've got lost it all. Baby, when you're ready, and need some breaking your heart. When the bottle's empty, and you tasted every drink at the bar. dress, VIP pass, backstage, all access. You traded all for love, and now you've gone, we've lost it all. Baby, when you're in, and he's done breaking your heart. When the bottle's empty, and you tasted every drink at the bar. Running out of real life, feeling like you're on your last try. I'm not there to fill up your cup. That you'll be coming back. Come on. You will not play with fire. You know what I'm gonna say. E stavo un po' parlando con Erika, giusto? Sì, ho detto giusto. Un po' di quello che è la, diciamo un po' il suo background, ecco, mettiamola così. Dici un po' che studi hai fatto, anzi prima di tutto sì, anche un po' le tue esperienze, anche tu hai detto che comunque hai fatto già un film, hai fatto una parte, ecco, un ruolo piccolo, però ruolo. Comunque mi sono trovata proprio in un vero set, ecco, sì, cinematografico. Ed è stata veramente un'esperienza bellissima, perché mi sono proprio trovata con le realtà proprio cinematografiche e con gli attori, quindi è stato proprio bello confrontarsi e lavorare con loro, con persone note del cinema, del settore, certo. Però, bene, e qual è l'esperienza che ti ha colpito di più? Io diciamo che ho una grande passione per il teatro, infatti io sono partita con il teatro, ho studiato recitazione teatrale e il mio più grande amore è il teatro, quindi perché comunque a teatro ti confronti con un pubblico, mentre al cinema comunque la telecamera e non hai uno scontro diretto con qualcuno, hai una macchina immagino. E quindi... è più bello avere ti piace l'emozione comunque, vedere le emozioni in l'emozione faccia del, alla del gente pubblico, che certo. È giusto. Però comunque sono è una bella soddisfazione anche il cinema. E volevo chiederti farti un'altra domanda. Il ruolo dove tu ti sei riconosciuta di più? Il ruolo dove mi sono riconosciuta di più è stato nel 2015, quando ho interpretato Antonia, che era una ragazza che aveva dei problemi, diciamo, di cuore. E in quel periodo era un periodo un po' particolare, un po' mio, un po' strano. E in lei mi sono riconosciuta molto, sì. Infatti, secondo me l'ho interpretato a pieno, me lo sentivo proprio mio. Quindi ho detto, sì, sono io, sono lei, uguale. Ah, bene. E che film era questo Antonia, di che film era piuttosto? No, di in realtà questo era si spettacolo. Trattava di uno spettacolo teatrale, sì, che ho interpretato nel 2015. Ma tu giri tanto per teatri? Sì, a me piace mi piace oltre che farlo anche vederlo. Infatti sono proprio appassionata di teatro e vado spesso a vedere spettacoli teatrali. Però, bene. Ultimamente sono andata a vedere, perché mi hanno invitato a una prova aperta di L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Ed è stato molto bello, perché innanzitutto le prove aperte vedi proprio come realizzano uno spettacolo, vedi proprio le prove, vedi proprio un contatto diretto con le prove, quindi molto anche molto come interessante. Si muovono, come gestiscono, sì, come si muovono all'interno della scena, sul palco, come ripetono le battute, molto interessante. Però, anche perché io ho fatto un'esperienza anche come assistente regia al Franco Parenti di Milano ed è veramente una realtà anche questa che mi affascina molto. Però Bene, bene. Hai ancora qualcosa da raccontarci? Vuoi dirci un po' di quello che farai? Se hai qualche recita o qualche altro film, spettacolo? Per ora ho dei progetti, però preferisci non parlarne. Preferisco non parlarne. Okay, vabbè, perfetto. Magari tornerai a parlarcene in un altro momento, no? Potresti tornare un'altra volta. Volentieri. Va sì, bene, va bene, dai. Allora, per adesso ti salutiamo. Se vuoi restare qua con noi, c'è nessun problema. Certo. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi dopo un po' di pubblicità, così qualcuno prende un po' d'aria. Il prossimo brano è di Lord. Lorde, come si dice? Lord, secondo me. È Lord. Lorde. Lord, cioè, come pronuncia? È vero Lord che... Lord mi sembra però una cosa... Una sporco. Però come è scritto in inglese, Lord è senza la E. Aspetta, che infatti, giù tutto. Mi incuriosisce la cosa, adesso vado a informarmi. Comunque il brano è Green Light. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I always try, could get my things and just let. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go.

questo qua è un pezzo di Afrojack con David Guetta addirittura. Ah. Penso che potrebbero, per dire i nomi, questi nomi qua potrebbe crollare i muri della radio. Giorgio ti caccio. Sì, infatti. Però il pezzo mi piace, devo dire la verità, ed è in linea anche con quello che suoniamo in Wolf Trips. Sì, sì. Vediamo se bello. Abbiamo anche in linea il buon Fabio. Il buon Fabio. Fabio. Aspettiamo un attimo, vediamo un po', vediamo un po'. Fabio. Non ci senti, Fabio? Nada, eh. Vediamo un attimino. Fabio, niente. Non è pervenuto, niente. Che vi devo dire? Fabio. Fabio? Dove Filippini sei? Fabio. Niente, è non pervenuto. Poia, no, ah, eccolo, eccolo, sento qualcosa, Fabio. Fabio. Buon... Ciao. Ciao, io vi sento ma lontani lontani. Lontani lontani. Dipende, tu dove sei? Sinceramente adesso non vi sento più. Ah, allora niente, dai, niente. Aspetta un attimino. Niente, non ci senti nemmeno adesso, no? Vabbè, ragazzi. Fabio? Oh, eccoci qua. Grande Fabio. Dove sei? Sono a Milano a cena. La mia collega di Coca Village stasera. Ah, ti tratti bene allora? È l'alcol che fa già effetto? È l'alcol che fa già effetto? Non ci sente più, non ci sente ci più. Senti? Oggi c'è il telefono che fa, no, fa le bizze. Io lo fa sento, Fabio. Fabio? Ah, se mi sentito, no, se intanto sento la Creo. Eccoti, è l'alcol che fa okay. effetto già? Sì, comunica con me, che ti sento. Mi senti grande, grande Fabio. No, stasera diciamo che è stata una serata abbastanza di cultura. C'era Sara e Emanuele che hanno parlato del blog Bioma Terra, poi abbiamo avuto una ragazza che ci ha parlato un po' di cinema, di anteprime cinematografiche. Un po' centrate sulla povertà, e quindi è stato un momento serio, Fabio, stasera. E quindi io non c'entravo nulla, perché io e la serietà siamo due cose diverse. Ma vai tranquillo, posso dire lo stesso. Va come bene. Te. Allora, ragazzi, adesso ordino il 5 di prosciutto. Grande, mandacene un pezzo, che noi siamo affamati qua. Prendo le ordinazioni, noi siamo affamati. Ah, pure carina, Ciao, ciao. Va bene, ciao Fabio. Ciao. Ciao. E niente, quindi... Ecco, il nostro buon Fabio che è sempre presente anche quando non è presente fisicamente. A divertirsi. Diciamo che un po' mancano questi tempi, Come mancano? Andare a mangiare fuori tutti insieme. Vabbè, si può ultimamente siamo solo io e te, tu ed io. E che devi farci? Vabbè, si può sempre organizzare. Dai, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano e abbiamo superato la prima oretta. Andiamo avanti ancora un pochettino, sì, con il nostro programma, che abbiamo ancora un po' di cose da dire, dai. Andiamo ad ascoltare il brano di Capital City con Drop Everything. What the circumstances, I don't care what my other plans is. I'm here for you, so take advantage. I don't care what the circumstances. Like even if the president says you need to come to my defenses, I tell her sorry, no offenses, but someone needs my full attention. I would drop. Thing. Oggi stiamo facendo un tour de force di personaggi che vengono a trovarci, che sì, se ne vanno. Sì. Abbiamo appena salutato Fabio. E niente, abbiamo adesso abbiamo avuto qua Emanuele con Sara. No, Sara è ancora qua, qua. Ancora, ancora qua. E niente, abbiamo avuto anche Erika. Erika, sì. Allora, prima dei saluti, ridici un po' la dove ti possiamo seguire in quello che fai, la mail. Allora, mi potete seguire se volete su Erika Eventi Spettacolo su Facebook, la pagina. Mm-hmm. E poi volevo ribadirvi la mail a quale potete confermare la vostra presenza per partecipare all'anteprima del film di Pane dal Cielo, che sarebbe rsvp@vedeschifilm.com. Perfetto. Vedeschi quindi... con la B, perché io sono solo. Vedeschi con la B. Avevo sentito Vedeschi, quindi... No, invece no, vedeschi. Con la B di con Bologna. La B, perfetto, perfetto. Niente, allora ti ringraziamo per essere stata grazie con a voi noi stasera. E ci... È stato un piacere, davvero. Ma figurati, anche il piacere noi, nostro. Per niente, quando vorrai tornare volentieri. Ci farai... Tanto hai i nostri contatti, quindi ti rinviteremo alla trasmissione. Certo. Grazie mille, ti salutiamo e ti auguriamo un in bocca al lupo per il tuo film, cioè per il film in cui hai fatto la comparsa, sì. Insomma. Grazie mille ancora. Ciao grazie Erika, buona serata. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Andiamo ad ascoltare un altro brano così ci riprendiamo un attimino e salutiamo Erika intanto. Okay. Il prossimo brano è di Sophie Tucker, questo che mi dicevi oggi che... Ah, ma l'hai preso da qua. Sì, perché coincidenza diciamo... vuole che io avevo appena sentito questa canzone alla televisione, che stranamente avevo la televisione accesa, e lui dopo 5 minuti l'ha messa. E allora, qua c'è la copia. Every time you call on me, you are my best friend and we've got some shit to shoot. Yo, you wanna meet me at the bar? Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's what we're here. Del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. through some hoops. Wanna get my body loose. Wanna tell you what to do. I've been running out of bounds like an animal struggling, looking for a diamond. I'm trying, I'm fighting, riding in the rhythm now. I just wanna stay. Ci avviamo un po' all'ultima parte di Wolf Trips. Oggi è stata una giornata veramente pesante. In tutti i sensi, ma in generale sta settimana è stata un po' pesante. Infatti speriamo in bene nel sabato e domenica, un po' di relax. Bravissima. E intanto per rilassarvi... 1020 questa sì, settimana. Sì, abbiamo un po' di eventi con Radio Lupo Solitario. Che sono talmente tanti che sono i 30. Ok, vabbè, dopo questa stronzata. Vabbè, ascolta. Allora, iniziamo con ricordare l'evento più recente, che è sabato 11. Domani? Domani. Sabato 11. Vabbè, C'è Neuro Black Legend, sarebbe un Remember Nautilus all'Opera Rock Caffè. Sì, praticamente è l'evento proprio di Radio Lupo Solitario, in cui si riuniscono un po' tutti i DJ storici che hanno suonato all'epoca del Nautilus e niente, ci sarà la musica veramente i classici, i cult di Radio Lupo Solitario. Insomma, più è una bellissima serata ed è d'ingresso gratuito, tra l'altro. Ah, bene. All'Opera Rock Caffè, dove siamo all'Opera già Rock. Dove comunque ci sarà un DJ set con serata dal vivo. Sì. Tutti i giovedì. Ah, giusto, è vero. L'Opera Rock sia al giovedì, ogni giovedì c'è l'appuntamento Opera Rock. Non solo, perché abbiamo anche un altro appuntamento quasi fisso. Il prossimo sarà venerdì 17. Mamma mia, è proprio una data di venerdì. Infatti, io mi sa che tiro. Tra l'altro, dovrebbe suonare Tony. Oh, però. Che salutiamo, poverino. Salutiamo e le mie più sentite condoglianze per settimana prossima. A parte gli scherzi, questa serata si terrà al Family Pub di Narzo. Sì. Tra l'altro, locale che salutiamo perché abbiamo fatto anche molte belle serate e ci ascoltano sempre. Si mangia bene e soprattutto c'è la birra buona. Poi avevamo eventi esterni a Radio Lupo, vero Sara? Vabbè, se vuoi proprio dirlo, allora sì, domenica 10, no. Sono comunque eventi della domenica zona. Domenica 12, perché oggi allora, 10. C'è una festa dove faccio il volontariato al Gattile di Gallarate. Ok. Si chiama Gattaland. Rinominata da Domenico Gattalard. Certo. Perché il gatto arriva magro ed esce largo. Diciamo che non stanno più nelle gabbie dopo un po'. Quindi. No, ma infatti la cosa bella è che lì non ci sono gabbie. Comunque c'è questa festa, insomma, così. Anche per raccogliere un po' di fondi. Esatto, e per conoscere un po' il Gattile. Infatti. Va bene. E soprattutto se qualcuno vuole fare. E non è un invito. Buona. Venite e mangiamo in un Gattile. Venite, anzi, no, venite perché io faccio la torta. Così okay. La mangiamo. No, però detto così, se lo dice un vicentino. Non va benissimo come cosa. Vabbè, andiamo a ascoltarci il prossimo brano e poi dopo vediamo un po'. Chi è che abbiamo adesso? Portugal The Man con Feel It Still. Oh. To keep my hands on myself. Pick up dust them all, put them back up on the shelf. Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ci avviamo verso la fine di Wolf Trips. Adesso vedremo un po' quanti brani mettere. Loro erano i Portugal The Men, che abbiamo già ascoltato e riascoltato, sì, esatto, in Wolf Trips. Che tra l'altro uno dice, vabbè, Portugal The Men, chissà da dove vengono. No, in realtà vengono dall'Alaska. Vabbè, non... Portugal, ma non arriva da, non arrivano dal posto caldo neanche. E loro tra l'altro stanno facendo delle tournée in questo periodo e sono molto lanciati, nel senso che stanno iniziando ad avere un loro discreto successo e anche, secondo me, anche giusto, perché sono molto bravi. E... quindi insomma, allora... qua non ci saranno più in questa radio, in questa... No, ma questo... Perché allora, infatti, volevo farti una domanda. Bravo. Gli ultimi brani non sono, diciamo, sono già conosciuti. Allora, no? Allora, noi abbiamo detto Wolf Trips, musica, è musica underground. Esatto. In realtà ho cambiato un pochettino la direzione del programma mettendo musica elettronica, magari anche non del tutto underground, anche qualcosa di un po' più conosciuto, come per esempio il brano che ascolteremo dopo, che è degli LCD Sound System. Mm-hmm, ma anche prima il brano di Lord e il brano di Lord, ma anche i primi brani che abbiamo ascoltato, in realtà quelli sono, secondo me sono dei brani che verranno fuori più avanti. Mm-hmm. Gli LCD Sound System, che vengono dagli Stati Uniti loro. Loro fanno indie rock, ma in realtà io li ho sempre ascoltati come musica proprio elettronica a tutto spiano. Mi ricordo il primo brano che avevano fatto, che era Daft Punk is Playing in My House. Non mi chiedere il perché, però è così. E il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è degli LCD Sound System, è Tonight, però scritto Tonite. Sembra un minerale. Sì, è vero, è vero. Tonite, la tonite. Andiamo ad ascoltarli. Everybody sing the same song. It goes tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. I never realized tonight these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, cry, cry, cry, cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. But what remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. And all the hits are saying the same thing. There's only tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Man, life is finite. But shit, it feels like forever. It feels like forever. Is everybody feeling the same stuff? We're all wild, except for you. Sono proprio le battute finali, dai, dai, che ce l'ha. Sì, esatto, voglio riuscire. Canzone, no, voglio riuscire a metterle tutte, i brani che mi ero messo in programma. Ne mancano due. Allora, loro erano gli LCD Sound System con Tonight, brano per forza elettronico, perché c'ha questo suono super elettronico. Il prossimo brano lo vuoi dire tu? Qual è? Va bene. Allora, il prossimo brano che andremo ad ascoltare è Axwell, Ingrosso. E Ingrosso, sì. E Ingrosso. E la canzone è More Than You Know. E mi sembra una canzone che ho già... cioè, il titolo, sì, mi sembra, sì, già... Sì, sì, sì. Ma il brano è molto conosciuto. Questo siamo proprio, andiamo proprio nel super mainstream. Ah. Però ha il suo perché il brano. Mi piaceva molto e volevo farvelo ascoltare. Andiamo, vabbè, ad ascoltare, dai, quindi Axwell e Ingrosso. No, non andiamo più a ascoltare Axwell Ingrosso, perché porca la miseria, ah, il computer, no, ha dato un default. Qua, qua. No, vabbè, comunque, vabbè, può succedere, dai, vabbè, il PC, sai, non è proprio una macchina super perfetta. Però magari, io non dico tanto, ma magari riesco anche a recuperarlo. Vediamo un po' se riusciamo ad ascoltarlo. More than you know, yeah, more than you know. smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest, yeah. More than you know, yeah. More than you know. You should know that, baby, you're the best, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. I vabbè, visto che sei riusciti a metterla alla fine. Sì, esatto, ce l'abbiamo fatta. Tu non sei ma dovuto fare un magheggio incredibile. In 10 secondi neanche è riuscito a, praticamente si è tolta la schermata e lui è riuscito a riprendere la canzone e rimetterla. Grande mago. Domenico è grande mago. Diciamo che stasera ce ne stanno succedendo di tutti i colori, ma va bene così. Prendiamola con filosofia, dimmi. Alle 9 dovrebbe arrivare il meteo, giusto? Tu non hai alle detto niente per il meteo di domani. Aspetta che non ho il cellulare, eccolo. Dici un po', dai. Allora, domani prevalentemente soleggiato. Ci vorrebbe la sigla. Prevalentemente soleggiato, temperatura minima di 5. Vabbè, quindi domani si sta bene, dai. Sì, dovrebbe quindi essere ci possiamo... si può andare al Neuro Black Legend. Vabbè, quello per forza, vabbè, in ogni caso. E al Gattile si può andare domenica, c'è il sole. È un momento. Dici che se no non sì, si fa. Sì, domani sole nuvola, quindi temperatura massima di 14 gradi, dai. Va bene, va bene, dai, siamo... Che... Direi che siamo proprio sfiniti. Lanciamo l'ultimo brano, proprio fuori dalla finestra lo lanciamo. Sì. E lo ascoltiamo e poi dopo ci sentiamo per i saluti. Lancialo tu, dai. Allora, il prossimo brano bellissimo. È Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ah, l'hai detta giusta, l'hai detta giusta. Non ti ho colto in fallo. Falling too fast to prepare for these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a race horse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Let it that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I'll do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. I'll do whatever it takes. Oh, now take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Fear being typical, looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like a martyrdom, everybody wants to be a part of them. Never had enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a race horse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Letter that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. I do whatever it takes. Oh, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. I'm hypocritical, egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working hard on something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world, the vision we've lost, I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see, I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave my body and my soul to be a part of thee. I do what it takes. Dai, abbiamo chiuso in bellezza, dai. Sì, questa dai, canzone molto è molto bella. Tra l'altro guardate il video perché mi piace, tutto bianco e nero, bello. Bello, bello. Bello. Bene, bene. Le cose bianco e nere comunque per me sono le migliori. Sì, beh, come catturare l'attenzione di una foto bianco e nero, ovviamente. Giusto, giusto. Sì, ma giusto. Non solo quello, il colore di una grande squadra, il colore. Siamo in radio. Infatti, io non ho detto nulla. Ah, okay, okay, non ho fatto né nomi né nulla. Vabbè, sì, sì. Non è che c'è il veto. Ho solo detto i colori che mi piacciono, sono sì, sì. Mi attirano. Infatti è dell'Udinese. Ah. No, una grande Udinese, no? No, dell'Ascoli. Sì, ah, l'Ascoli Piceno. Pure, sì. Vabbè. Vabbè, vabbè. Allora, siamo arrivati in fondo al programma. Oggi abbiamo anche abbastanza, come dico io, pisciato sperato. Fuori dal vaso. Di 35 minuti. No, vabbè, vabbè. Vabbè. Comunque, vabbè. Lasciamo lo spazio tra un al po' programma... al programma dopo di Wolfman Jax. Che sono già qui dalle 9. Ma che cosa fate stasera? Questa sera avremo un ospite direttamente dagli studi di Sky. Ah, da Rogoredo. Ma abbiamo visto prima sulla pagina, ti ricordi? Abbiamo visto la foto. Ah sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Va bene, dai. Allora, lasciamo il salottino. Lasciamo la console. Al buon Sam. E... Italo. Italo, scusami, stasera non mi vengono i nomi. Ma va bene così, verranno tempi migliori. Forse. Forse, non lo so. Guarda che tra poco invecchi, Io te lo ripeto. Allora, devi la lingua deve battere contro il palato sempre. Vediamo. E vai tranquilla che funziona. Parli tranquilla. Bene. Anche perché siamo andati a fumare una sigaretta e mi ha detto non lo so nemmeno io. Ok. Mi raccomando, vabbè. Domani sera. Giusto, è vero, è vero. Ricordiamo domani l'evento sera, di domani sera. Sabato 11. Neuro Black Legend all'Opera Rock. Da sarà che ora? Presente il nostro buon Sam. E saremo anche in diretta radiofonica. Pensa ah, un po'. Pure pensa in diretta. Un po'. E va bene, niente, salutiamo tutti, salutiamo ci sentiamo tutti. Settimana prossima. Certo, ci vediamo venerdì con il nostro ospite. Ah sì, è vero, verrà anche... un DJ della zona... chiama Power DJ, Power DJ. DJ. O DJ Power. Ti aspettiamo. Bravissimo, bravissimo. Molto alla Goku. Sì, sì, sì. Ti aspettiamo venerdì. Intanto auguriamo a tutti un buon buona, fine settimana. Buon fine settimana e buona settimana. E venite giusto, domani all'Opera Rock. Esatto. Ciao. Ciao.